24, i gialli della storia. Ciao, ti amo. Con tutto il nostro amore. Ci vediamo presto. Mi mancate tutti moltissimo. Arrivederci presto. Tuo marito. La tua Marjorie. I tuoi affezionatissimi figlio e fratello. Tuo figlio. Il vostro figlio e fratello combattente. Johnny. Tim. Ugo. Ernest. Ed. Jack. Post scriptum. Scrivimi. Tuo figlio, tuo marito, tuo fratello, il tuo amico. È la firma di un soldato su un foglio che racconta la guerra. Le lettere dei combattenti, le lettere dal fronte raccontano sentimenti e emozioni sempre uguali. Paura e dolore, rassegnazione e rabbia, speranza e rimpianto, orgoglio e rancore. Sono soldati della guerra di secessione americana, della prima o della seconda guerra mondiale, della Corea o del Vietnam, ma nelle parole di tutti c'è una costante. Stanno vivendo qualcosa che non riescono a spiegare e che vorrebbero fuggire. Lettere dalla guerra è allora un documento testimonianza mistero. Novembre 1943, Fort Benning, Georgia. Cara Luisa, ti ringrazio del tuo pacchetto. Però per favore non mi spedire altre mutande, calzini o dolci. Il latte di magnesio non mi serviva proprio. Non ho più problemi di intestino e non me ne voglio augurare altri. Questa settimana ci stanno insegnando ad uccidere. A questo punto starai forse inorridendo e chiuderai gli occhi. Neanche a me piace l'idea, ma qui tutti noi sappiamo che è per il nostro bene. La parte più difficile è far penetrare la baionetta. Facciamo un balzo in avanti e ci dicono anche di fare la faccia cattiva e di guardarci tra noi con odio. Ci insegnano anche a ritrarre la baionetta in un certo modo, perché l'acciaio a contatto con la carne umana calda si attacca e non esce. Ci insegnano anche come attaccare un uomo in maniera scientifica. Questo mi sarà utilissimo in caso qualcuno cerchi di attaccare me. A proposito, tutto qui viene fatto a tempi serratissimi. Detto tra noi, sono stufo. Ciao. Mort. Nashville, 10 giugno. Anne. Mi piange il cuore nel pensare allo stato attuale del nostro paese, una volta felice e ancora tanto amato. Vedere quanta distruzione e quanta miseria possano procurare due valenti eserciti, dotati di tutti gli strumenti di morte, prodotti da arte e ricchezza, che si fronteggiano sul campo di battaglia. Quello che è più orribile in questa situazione è che quando si troveranno di fronte, fratello combatterà contro fratello, padre contro figlio. A prescindere dalla parte su cui mi troverò io, potrò comunque trovarmi contro un cugino, uno zio. E Dio non voglia, spero di non trovarmi mai faccia a faccia con nessuno dei due. Anne, passerò dalla tua città il 27. Ma se non dovessimo vederci, non ti disperare. Questi sono tempi strani. Il tuo amico, P. Burns. Caro papà, beh, eccoci qua. Ci hanno detto che la nostra compagnia verrà spedita in Vietnam. Il nostro comandante dice che è inutile raccontarci balle. Partiremo senz'altro. L'unica cosa che mi fa arrabbiare è come pensano che uno possa comunicarlo alla famiglia. Anzi, come non pensano, perché si comportano come se fosse una cosa di tutti i giorni e come se anche noi dovessimo pensarla così, cioè far finta di niente. Non mi fa una grande differenza partire, ma ci sono altri ragazzi che non so se ce la faranno. Dì a mamma che avrei preferito dirglielo personalmente, ma forse non avrei saputo trovare le parole. Tuo figlio, Bob. P.S. Dille di non preoccuparsi, ce la posso fare. Dicembre 1941. Domenica scorsa abbiamo avuto un po' di maritta ed è stato tremendo. succedendo fino a che non sono sceso dalla collina andando verso l'ospedale. È lì che ho visto il fumo e i fuochi. Ogni momento pensavo che per me fosse arrivata la fine. Sono corso verso la sala operatoria ed era già iniziata la processione dei feriti. Questi poveri ragazzi, feriti, bruciati. Abbiamo cominciato a dargli parecchia morfina e li abbiamo spediti nelle corsie a morire. Non vorrei dirlo, ma è questa la vera droga. Siamo rimasti solo con 3 corazzate che possono combattere. Gli aerei persi sono più di 200. Quei maledetti musi gialli hanno fatto proprio un bel lavoro. Auguriamo a tutti voi un felice Natale e un buon anno nuovo. E non dimenticate per Arbor. Paul. Vietnam. 30 marzo 1971. Cara mamma e tutti, non preoccupatevi. Non mi hanno dato un'altra medaglia al valore. I miei compagni sono tutti morti. Della mia compagnia di fanteria, 21 sono morti, 29 feriti e 27 di noi sono rimasti a raccontare le 5 ore d'inferno che abbiamo vissuto. È troppo tardi per lamentarsi, ma la verità non verrà mai raccontata al paese. Molti uomini sono stati uccisi, eppure vi diranno solo la metà del numero esatto di caduti. Non riesco più a dormire bene da nessuna parte. Sto cercando di dimenticare l'orrore di domenica mattina. Mamma, non ne posso più di questa merda. Storie di uomini che hanno dovuto imparare ad uccidere e spesso non sono riusciti neanche a capire perché. Sono tutti uniti in una drammatica solitudine, come si legge in quest'ultima lettera di Paul, un soldato che morirà dopo poche ore. Caro Mitchell, penso che nessuno possa spiegare il combattimento. Immagina la paura, la rabbia, la fame, la sete, lo sfinimento, il disgusto, la solitudine, la nostalgia di casa. Metti tutto in un'unica sensazione e potrai appena avvicinarti a quello che si prova al fronte. Ti fa sentire estremamente piccolo, impotente e solo. La battaglia sembra sempre qualcosa che avviene in una terra lontana. Il ruggito è forte, come al cinema. Le grida dei feriti sono raccapriccianti. I morti sembrano dimenticati. La battaglia infuria tutta intorno a loro, ma loro sono fermi e quieti. Con amore, Paul. Carissima moglie, sono fuori in missione con 11 uomini e un medico. Dopo che tutto è stato piazzato in posizione, non mi resta niente da fare se non aspettare e pensare al perché sono qui. Perché devo dire ai miei uomini di fare qualcosa che probabilmente li farà saltare per aria? Essere un buon capo pattuglia è un lavoro solitario. Non voglio fare amicizia con nessuno qua giù. Perché è già molto duro perdere un uomo della tua squadra, ma perdere un amico è ancora peggio. Ma anche se ce la metto tutta per non farmi coinvolgere emotivamente, i miei uomini mi piacciono tutti. E con alcuni ho anche un rapporto più stretto. Vengono da me e mi dicono: «Ehi, vuoi vedere una foto di mia moglie o di mia figlia?» Come ti dicevo, più cerchi di restare solo e più ti senti solo. Forse un giorno troverò le parole per dirti quanta paura ho in questo momento. Non c'è niente che io possa fare se non aspettare che un altro giorno inizi e finisca. Con tutto il mio amore di sempre, Dean. Ma anche i soldati ricevono delle lettere, lettere affettuose e piene di speranza, anche se qualche volta contengono notizie devastanti e tristi. È un modo per ricordare la vita che hanno lasciato, ma anche qualcosa che rende più dura la permanenza in un inferno che non hanno cercato. Gennaio 1952. Buon pomeriggio. È un bellissimo giorno freddo qui in Iowa. Come stai oggi, mio dolce amore? Jen sta facendo il suo pisolino pomeridiano e Jay gioca ai cowboy tutti i giorni. Lui ormai non dorme più il pomeriggio. Penso che sia giunto il momento che tu torni a casa, perché Jen sta cominciando a chiamare papà ogni figura d'uomo che vede sulle riviste. Sarebbe bellissimo poterti avere a casa di nuovo. Potresti arrivare a casa la sera, sederti in una calda poltrona accogliente e Jay ti porterebbe le pantofole e la pipa e io ti porterei qualcosa di fresco in uno dei nostri nuovi bicchieri alti. Le ombre si stanno facendo lunghe sul prato di casa. Sono le 4 passate e presto sarà di nuovo buio mentre da te sta quasi per fare giorno. Abbi cura di te, amore. Con tutto il nostro amore di sempre, Lou, Jay e Jen. Caro figlio, ti è nata una deliziosa bambina. Ha già 5 giorni, sta bene e aspetta il tuo ritorno a casa. Purtroppo però, la tua adorata moglie da oggi non è più con noi. Ragazzo mio, so che questa sarà per te una notizia molto triste, ma ricorda che è la volontà di Dio che si compie, non la nostra. Fatti coraggio adesso e ricordati che la bambina avrà bisogno del tuo amore e delle tue cure quando ritornerai di nuovo a casa. Che Dio ti dia la forza per portare questo peso. Questa è la mia preghiera. Tuo padre. Carissimo Roland, neanche oggi è arrivata posta. Spero che arrivi oggi pomeriggio. Quel povero postino si sente a disagio quando non ha una lettera da portarmi. Non guarda mai dalla mia parte quando non ha posta per me. Quando vado in chiesa in questi giorni, mi inginocchio e comincio a pregare. E non riesco a descriverti l'emozione che mi assale. Tu, Dio e l'amore che provo per te sono tutti mischiati. È un sentimento così forte. Sento che ti avvolgo ovunque tu sia e qualunque cosa tu stia facendo. Il mio pensiero ti vede di solito in un aereo. Riesco a sentire le mie braccia che si stringono intorno a te e la tua testa che si appoggia dolcemente sul mio seno, col mio corpo che protegge il tuo. Forse è il mio spirito, credo. Ti amo così tanto e mi manchi così tanto. Sii forte e abbi fede. La tua Marjorie. C'è poco tempo per i rimpianti, bisogna tornare a combattere e farlo senza capire neanche bene il motivo di tante sofferenze. Vivendo la guerra vengono in mente soltanto molte domande. Giugno 1918. Caro reverendo, sono qui seduto e mi ritorna in mente la piccola chiesetta dietro casa e mi chiedo come vanno le cose per lei. Non pensi che sono giù di corda, ma da quando sono partito volontario mi sento come un moscerino in un grande ingranaggio. Il moscerino rischia di essere schiacciato, ma la macchina va avanti lo stesso e non riesco a trovarvi Dio. Come può essere giusto che un uomo venga storpiato a vita tra mille sofferenze, che un altro muoia sul colpo, mentre io ne vengo fuori illeso? Davvero Dio ci ama tutti uno per uno? Oppure ama di più il suo disegno? Preferisco credere che Dio faccia soffrire l'innocente al posto del colpevole e che alla fine i conti torneranno, anche se mi rendo conto che suona più come una partita di giro contabile piuttosto che l'atto d'amore di un padre. È che vorrei credere che Dio è anche in questa guerra piuttosto che essere solo uno spettatore e che ci sostenga in quello che di buono c'è in ognuno di noi. Non fa nessun miracolo per noi, perché questo vorrebbe dire risolvere i problemi al posto nostro, quando invece siamo noi a doverli affrontare. Non so se Dio va avanti a forza di eserciti, ma so per certo che Egli è nei cuori di molti dei nostri uomini, altrimenti non potrebbero fare quello che fanno. Con affetto, soldato Walter T. Bromwich. Livorno, Italia. Un giapponese americano del 442esimo reggimento. Carissima May, in tasca tengo un pacco di lettere sporche e consunte. Mi danno la carica fino a che non ne arrivano di nuove. Far parte della prima linea significa che siamo i primi a marciare attraverso le città che tanta fatica e sangue sono costati per liberarle. Ma la popolazione ci è grata. Sanno già quando stiamo per arrivare. Per loro il nostro arrivo significa che la guerra è finita. Appena entriamo in città ci ricoprono di regali. Cose semplici, ma quando sei stanco ed esausto dalla battaglia, accetti i loro doni con un groppo in gola. Adesso so davvero per cosa stiamo combattendo. La nostra missione è quella di liberare le nazioni dall'oppressione. Dare ai bambini di questa generazione e di quelle a venire un'occasione per imparare il vero significato della parola libertà. Porta, ti prego, i miei saluti ai Morimoto. Con molto amore, Ernest. Agosto 1968. Cari mamma e papà, ieri notte è morto un altro marine. Nessuno saprà della sua morte a parte noi e i suoi genitori. Nessuna patria porterà il lutto per lui, né ci sarà alcuna bandiera a mezz'asta. Eppure questo marine ha fatto per il suo paese molto di più di quanto qualunque presidente o senatore abbia mai fatto. Si chiamava Caporale Lee Clark. Era un bravo marine ed una persona anche migliore. Non meritava di morire in un dannato paese per il quale non vale la pena combattere. Invece è morto. E quelli a casa, la cui libertà lui stava difendendo, non sapranno mai neanche il suo nome. Il Caporale Lee Clark è morto, ma quelli che lo conoscevano e che hanno combattuto con lui non lo dimenticheranno mai. Mancavano appena 38 giorni alla fine della sua esperienza nei Marine e in Vietnam. 38 giorni prima di cominciare a vivere di nuovo, prima di rivedere il mondo e casa. Solo 38 giorni. E invece è morto. Ti viene da chiederti perché. Ma anche le guerre più lunghe, terribili, alla fine finiscono e allora c'è ancora la possibilità di dedicare un pensiero a quello che è stato. Un pensiero ai rimpianti e a uno struggimento che sarà impossibile spiegare a parenti e amici. Torno a casa. Da stamattina è ufficiale. Ci vorrà un po' prima che bussi distrutto alla tua porta. Qualche settimana forse, ma ritorno a casa. La nostra casetta mi sembrerà una reggia e voi tutti re e regine. È vero che la gente mangia tre volte al giorno e magari anche di più, e che si siede su una sedia intorno a un tavolo. Qual è il problema? Non sanno scavarsi una trincea nel giardino dietro casa come tutti gli altri? Ho passato 12 mesi qui, il 30° anno, il più lungo della mia vita. Poco tempo fa avevo 18 anni e tutti i miei problemi erano le ragazze, le macchine e quanta birra un uomo vero riusciva a mandare giù. Non fa intendermi. Voglio ancora una macchina gagliarda, una ragazza gagliarda ed una birra ghiacciata. Ma ci sono stati momenti che le avrei volentieri barattate per una coperta calda, per un cappello di lana, per un laccio di scarpe. un fottutissimo laccio di scarpe. Ci sono stati momenti in cui mi sarei venduto l'anima per una tazza di caffè caldo. Però adesso torno a casa. Sai, è quasi buffo. Vediamo un uomo su una sedia a rotelle, uno con le stampelle, e ci facciamo in quattro per aiutarli. Ma che dire delle ferite che non si vedono? I fantasmi, gli incubi, le angosce che ti popolano la testa. Ti racconterò tutto. Dovrai avere molta pazienza con me. Pazienza e comprensione. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Egregio signore, per 22 anni ho portato la sua fotografia nel mio portafoglio. Avevo solo 18 anni quel giorno che ci incrociammo su un sentiero in Vietnam. Perché non prese la mia vita, non lo saprò mai. Mi fissò a lungo, armato con il suo AK-47, eppure non sparò. Mi perdoni per aver preso la sua di vita. La mia fu solo una reazione che mi era stata insegnata, quella di uccidere i Viet Cong, i musi gialli. All'epoca non vi consideravamo neppure degli esseri umani. Negli anni ho continuato a guardare la sua foto che la ritrae con una bambina, sua figlia, suppongo. Ogni volta il mio cuore mi bruciava per il dolore e per il senso di colpa. Anch'io ho due figli. Oggi sono in visita al monumento ai caduti del Vietnam a Washington. Erano molti anni che volevo venirci per portare un saluto a molti dei miei compagni caduti. Molti di loro li porto ancora nel cuore, come sono certo sarebbe stato anche per lei. Oggi non siamo più nemici. Per me siete dei bravi soldati che difendevano la loro patria. Nel lasciare questo luogo lascio qui la sua foto e questa lettera. Mi perdoni, signore. Cercherò di vivere la mia vita al meglio. Un'opportunità che a lei e a molti altri è stata negata. Fino a che non ci venga data l'occasione di incontrarci ancora in un altro tempo e in un altro luogo. Riposi in pace. Con profondo rispetto, Richard Luttrell, 101ª Divisione Airborne.